tienen que saber que la cumbia es el futuro. Así que. Pacto viscum donna. ¡State zitto, tú! Pusimos toda la música tropical bajo un techo y le pusimos salsa. La esquina del sol. Parole musica dell'America Latina. Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003. Y hasta la presente no sé dónde estarán. Las madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para adornar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina. La esquina del sol, tu pillo de día, dale 17, 87 y 9 de Radio Onda Rossa. El pueblo se tiene que unir para luchar para que la crisis no la pague el pueblo. Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo. Tutti giovedì dalle 17 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Minuti, allora un saluto. Todos los jueves a las 17, la esquina. Pratica blu che anche oggi termina, passa i comandi all'esquina del sol che a sua volta li passerà a Profondo Rosa. E allora ben trovati alle 17:12 minuti. Una trasmissione, quella di oggi, in cui non solo, appunto, veramente faremo parole e musica dall'America Latina, infatti parleremo anche di rumba cubana. Ebbene sì, perché proprio il 30 si ufficializzerà la richiesta di fare della rumba cubana patrimonio dell'umanità. Eh sì, lo so che a sentirlo sembra strano, ma insomma forse se andate a leggere qualcosa in più di quello che sapete potete scoprire che la rumba alla fine è stato quel mezzo di liberazione, sicuramente di rivendicazione di libertà di tutti gli schiavi e i cimarrones che da Cuba riuscivano a fuggire dai propri padroni, perché effettivamente padroni erano. E quindi al telefono avremo il piacere di parlare con Ulisses Mora e Irma Castillo, promotori della cultura cubana in Roma, coi quali insomma parleremo per la prima volta in questa puntata, perché continueremo poi nella prossima, appunto, della bellezza, della pienezza, dell'importanza della rumba cubana. O forse qualcuno di voi pensa che quelle facce angolane a Cuba ci siano nate da sole? Bene, avete da leggere, eh? E allora, quello che io vi dico intanto è che continuiamo con la musica. De Cuba a Puerto Rico è l'esquinita. Ci si mette un attimo. E allora cominciamo con un pochino di musica per poi introdurre questo tema di oggi. Para Puerto Rico, donde hay fe. Intanto a farci compagnia, rimanendo sempre nei ritmi puramente latini, Joe Batan. E per chi lo sa... Ancora la Fania ci riporta, ci ristampa in CD questi bellissimi dischi come appunto questo di Joe Badan, Saint Latin's Day Massacre. Una copertina un po' macabra. Ma insomma, visto quello che toccava passare a questi giovanotti negli Stati Uniti in quegli anni, ci hanno fatto gli hamburger in Vietnam praticamente. Dai che se torni vivo ti do la carta verde. E credo che ghetti come quelli degli anni 70 poche volte si sono visti in un posto che poi nel resto del mondo era famosa per la propria libertà, la libertà americana. Come c'è quella della libertà non ce ne sono altre. Sì, infatti, esattamente. Sì, tra l'altro oggi sentivo una fantastica notizia. Chiaramente 8.000 virgolette intorno a questo fantastica. Infatti proprio negli Stati Uniti, non ricordo in quale stato perché già mi stava salendo così come uno di quei momenti di buio totale in cui non si risponde più di se stessi, a cui io sono piuttosto così avvezza. Che dovete fare, c'ho il cuore grosso e quindi mi arrabbio molto. Beh sì, insomma, che stanno processando come un adulto un bambino di 12 anni che ha ucciso il suo fratellino e si è fatto già tipo 6 mesi di isolamento questa creatura. Eh sì, perché insomma, forse se una creatura a 12 anni non è più una creatura, non è esattamente proprio tutta colpa sua. E gli hanno proposto l'ergastolo, è stato proposto di mandarlo all'ergastolo, essere processato come un adulto, di essere mandato all'ergastolo perché ha ucciso il suo fratellino. Lui e la mamma sono coimputati in questo omicidio. E chiaramente, siccome l'ha fatto con la mamma, è perché è un adulto a 12 anni, no? Vabbè, raga, lasciamo perdere. Sorvoliamo. Però io vi voglio mantenere un po' ritmici oggi. E allora dai, dallo Tambores de Joe Batan, questa nuova pubblicazione da parte della Fania, vi voglio invece portare nella modernità più assoluta. Andiamo a incontrare una compilation che si chiama Route a Pacifica, che è un tributo alla musica ancestrale del Pacifico colombiano. Come sapete, la Colombia ha l'enorme fortuna e bellezza di toccare due oceani, una regione costiera popolata dalla sua gran parte di afrodiscendenti e una percentuale minore di indigeni Awa e Embera. Tutto questo si trova nella costa che abbraccia quattro province, ovvero il Cauca, il Valle, Nariño e il Chocó. Per tutta questa musica, è stato il mezzo di espressione e resistenza e di sopravvivenza, chiaramente in mezzo alla povertà, come accade spesso, e le difficoltà proprio di una zona con grandi aree selvatiche chiaramente tutto questo sotto la indifferenza più totale di un governo che invece poi spende miliardi e miliardi di dollari per baggianate varie, dal Plan Colombia per esempio alla diga dell'Enel nel Magdalena, esattamente vicinissimo alle zone di cui stiamo parlando. Dunque, alcune band hanno preso questo ricchissimo patrimonio culturale ancestrale, lo hanno contaminato con ritmi moderni quali il jazz, l'elettronica, il rock, il rap e il reggae, e ne sono venute fuori cose da paura per quanto mi riguarda, tipo questo brano che veramente rappresenta non so come dire, appunto, forse lo riconoscerete, una voce cantante propria della cultura ancestrale in mezzo a ritmi elettronici assolutamente moderni. Cartagena y Popayán. estado tú. Vengo de donde la raza tuvo que mucho luchar para luego surgir y ahora dar de qué hablar. Evolucionar, saber que nunca habrá una meta lejos para alcanzar. Mi raza negra que no se queja, no se acompleja. En su versatilidad musical su alegría refleja. Cumbia, salsa, reggae, hip hop, guapo, acostumbrado. Maquerule, burrulao. Y el cantar que tú no dule, nunca tendrá la virtud. Y el cantar que tú no dule, nunca tendrá la virtud. Que tiene mi banquerule, burlao veré. Que tiene mi banquerule, burlao veré. Ay, burlao banquerule. Rompieron las cadenas. Ja. Pacífico de Guapi, buscando sea un ritmo mundial. ed è Currullao, ne abbiamo sentito parlare tanto appunto dalla voce dei Chocip Town, che forse sono tra i primi che hanno operato questa forma di sincretismo tra la musica moderna e quella, così, i ritmi ancestrali, gli strumenti ancestrali. E insomma, allora, tra una decina di minuti chiameremo Ulises Mora e Irma Castillo per approfondire un po' di che si tratta la rumba cubana. E anche lì ci troveremo a parlare di strumenti, visto che insomma la clave, ovvero queste due bacchette di legno, quindi uno strumento direi più che semplice, elementare e fondamentale anche però per la rumba cubana, nonché per tantissima musica del Caribe, musica tropicale, è quella che proprio scandisce il tempo. Quindi diciamo che la rumba al suo inizio era formata da due bacchette di legno e una serie di cori che interagivano nello scandire di questo tempo. Come sempre raccontavano, come leggevamo anche per Rutta Pacifica, la pesante vita degli schiavi, nonché la liberazione e la fuga, l'ansia da fuga, insomma il fatto di sentirsi rincorsi e anche, come potete capire, di vivere in un'isola da cui poi insomma si può scappare, ma non più di tanto. Vivo questa situazione descansar, pasan una felicità vendiendo trapeadora e scuola. E allora, appunto, come sentite, intanto Rutta Pacifica continua, si parla anche dell'omino, si riprende anche l'omino che vende le scope. E chi con la clave, chi con la marimba, chi con il tambor. Que ya no me hablas, no sé por qué vos ya no me miras, yo no sé por qué vos no me bailas. No sé por qué, porque hoy te me vas, nunca volverás. No, yo no sé por qué, no sé cosa más del sol sobre mi ventana. No, yo no sé por qué, no, por qué no, por qué no te puedo ver en mi mañana. Yo no sé vos por qué ya no me escuchas, no sé por qué vos ya no me tocas, yo no sé por qué vos no me abrazas. No sé por qué hoy te me vas, nunca volverás. Ya no te animas, yo no sé vos por qué no me quieres mirar. No sé por qué, porque hoy te me vas, nunca volverás. No, yo no sé por qué, no sé posa más el sol sobre mi ventana. No, yo no sé por qué no, por qué no, por qué no te puedo ver en mi mañana, hoy mañanita. Yo no sé vos por qué hoy te me vas, vos ya no miras. Me miras, loro sono la Mojarra Elettrica. E invece saltiamo il Pozzangherone, così viene chiamato l'oceano. Andiamo in Spagna. Eh sì, faccio uno strappo alla regola. A tutte le mie amiche, a tutte le ragazze, a quelle che ragazze non sono, ma tali si sentono. In particolare a Branda, a Zanza e a Raffa, che sono state un po' le mie colonne, senza saperlo, le mie colonne d'Ercole in questo periodo. Bellas, os bellas, muchachas. Non mi raccontare di principesse salvate dai cavalieri. Non mi raccontare così di dame salvate nei castelli, chiuse nella torre, che tirano le trecce. Parlami della vita di Madri Sole. Queste sono le nostre supereroe. Era un esempio chiaramente Bejas. Questa era una canzone che non ci dovevamo far mancare l'8 marzo e che invece io me la sono scordata perché di notte così mi è passata tra i fumi del sonno. Canteca de Macao. Sueltas, libres, sin ataduras. Y si hay que sepan estar donde tienen que estar. Sin atadura, tú puedes. E torniamo nell'altro lato della mela, ovvero in Latino America, e colui che di solito da solista troviamo come Caramello Santo, il che santo, sì, questo sono nuestro Santos, e invece così accompagnato dal suo conjunto Goy Caramello e Los Cangrejos, con un bellissimo disco che potete trovare in rete, quindi io non vi dico altro, poi il resto lo sapete da soli, come fare, lo sapete da soli, un bellissimo album intitolato Remedio de mi corazón, noi... Ci stiamo già ascoltando cumbia punk, cumbia punk reggae party. Al ritmo de la cumbia de la población, al ritmo de la salla de México y Perú. Oye mamá güey, despáchate, saque los prejuicios y empecemos de una vez. Cumbia punk reggae party. Y empecemos de una vez. Yo te he visto con tus discos bajo el brazo, con la cresta en la cabeza, revoltosa de mi amor. Torniamo indietro negli anni, ancora Joe Batán. El mundo se vuelve loco. Ae, la baila Vicente. Oh, oh. Un poquito de coco, oh, el mundo oh, se vuelve loco. Coca, coco, coca, coco, coca, coco, coca. ¡Mete la boca! Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo, báilalo, báilalo, como un elefante. Que mis delicias se componen en decirte de mi vida la verdad. Oigan, señores y locutores, óigame toda la gente y hasta los televidentes y el público en general. Una sorpresa bien fresquecita, es una verdad bien grande la que Ismael va a contar. Hoy prefiero que la rumba bien castigue a todo aquello que no supieron bailar un bonito guaguancó. Para que gocen y que vacilen, igual que lo hace la tumba cuando replican bien fuerte un bonito guaguancó. Se casa la rumba, caballero, no. Se casa la rumba. Se casa la rumba, se casa la rumba. A mí me gusta bailar la sabrosito. Oye, la rumba me zumba bonco. Se casa la rumba, se casa la rumba. Ay, a las 3 de la mañana en la tarde. Se casa la rumba. Se casa la rumba, se casa la rumba. Ay, han pasado muchos años. Allora, io come vi avevo anticipato nella giornata di oggi avremo parlato di rumba cubana. Ho al telefono due illustri ospiti in merito, Irma Castillo e Ulises Mora, due persone che lavorano da tantissimi anni in Italia per la diffusione della cultura afro-cubana, direi in generale, e in particolare della rumba. E proprio loro sono stati, diciamo, qui a spingere perché questo, perché la rumba cubana diventi poi, e sentiremo perché, anche un patrimonio chiaramente intangibile, in quanto qui parliamo di musica e balli dell'umanità, ma questo non significa che sia meno importante. Allora, intanto io saluto la signora Irma, la ringrazio per concederci il suo tempo. Grazie a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori di questa radio. Allora, io diciamo poi già un po' ho letto quale sarà questo evento, come si svolgerà, e invece vorrei approfittare di voi per parlare un po' dell'importanza della rumba, una cosa che forse chi non se ne interessa per una passione propria non conosce qui in Italia, no? E allora, che cosa rappresenta la rumba a Cuba e non solo, e perché è così importante che questo patrimonio si mantenga vivo? Buonasera. Ah, buonasera, sì. La rumba è importante perché forma parte della nostra identità. C'è stato un grande antropologo, etnologo, Fernando Ortiz, che ha fatto i suoi studi, nel quale nei giorni di oggi possiamo raggiungere il massimo di quel pensiero di lui attraverso la nostra identità. Cioè vuol dire, la nazionalità cubana è un riassunto, una fusione di tante etnie e di tanti continenti, fondamentalmente l'Europa e l'Africa. E quindi questo si fusiona e esce fuori un prodotto che è il cubano. Il cubano con la sua propria identità, che poi attraverso la musica viaggia e si fa universale. Pensate che la rumba è presente nel jazz, che prima non ce l'aveva. È stato Chano Pozzo che l'ha introdotto nel 1942 all'America. C'è anche la rumba che trasmette il movimento sociale mondano di ogni giorno, e il sonriso che amalgama a tutti noi cubani con tutti i nostri colori. È un processo che Fernando Ortiz lo denomina transculturazione. È una cosa invisibile, ma è reale, è propria e viva. È l'anima, è lo spirito del cubano senza tutta la sua libertà d'espressione. Ecco, infatti viene proprio in mente anche forse la più grande dimostrazione di rivendicazione di libertà di quelli che erano i Cimarrones, quindi degli schiavi che poi si riuscivano a liberare, no? Esattamente, tutte queste etnie che sono arrivate a Cuba 500 anni fa attraverso una grande sofferenza, attraverso, bueno, quello che si conosce il mondo intero come schiavismo, che non si sta un'altra che la brutalità umana, ma quello nel tempo ha dato un prodotto, ma senza rancore, senza frustra, ma senza anche odio, ha dato una musica, ha dato un'anima, un divertimento sociale che fa un percorso in tutto il mondo. Tra l'altro la rumba in sé poi si differenzia in quella che diciamo il jamul, guaguancò, a seconda dello stile, poi trasmette momenti di particolare allegria, di racconto o qualcosa di un po' più lento e spirituale, no? Quindi non è la rumba, diciamo, raccoglie. È precisamente quello della rumba, è un momento di espansione, di godimento, di gioia della vita, un momento di dimenticare e avvicinarsi agli ancestri, a coloro che con la musica hanno vissuto tutto il tempo. Sì, infatti io penso che questo poi sia anche un arricchimento molto grande per un continente come il nostro, che forse adesso sta vivendo quello che è successo 500 anni fa altrove. Quindi, sebbene vengano da soli, vediamo arrivare persone che poi finiscono a fare quei lavori e subiscono quei trattamenti che forse al giorno d'oggi dovremmo aver messo nella nostra memoria perché non accadano più, ecco. Ecco il problema, il diritto alla memoria storica. E questo è una grande cosa, ha detto lei, perché non possiamo dimenticare. Se dimentichiamo, perdiamo il senso di quello è la strada del futuro. E la rumba, con i suoi movimenti, come lei lo ha detto, il jambù, che è più lento, il guaguancò, che si vacuna tutti e due in coppia, e la columbia, che è un ballo soltanto da uomini, ma nella ricerca e nel progetto sociale di Cuba anche le donne partecipano, e quindi dimostrando così questo bilancio fra esseri umani di uguaglianza, dà appunto l'estrada della memoria del tempo, della memoria di quello che ha successo 500 anni fa, perché non lo possiamo dimenticare di dove veniamo, perché è solo così sappiamo dove vogliamo e dobbiamo andare. Va bene, io... La rumba, sì. La rumba è anche un simbolo di resistenza. Esatto. Precisamente l'anno scorso la UNESCO ha proclamato l'anno 2011 l'anno degli afrodescendienti, e noi attraverso Timbalay, attraverso di questo festival internazionale del rumba cubana, siamo riusciti anche a festeggiare a livello internazionale con la partecipazione di tantissimi paesi e con la presenza di tantissimi studiosi, antropologi e pure amanti della musica e del ballo di questa rumba, la presenza africana e nel continente latinoamericano, ma una presenza di una energia, di una fonte viva che attraverso i secoli dei secoli ha mantenuto una essenza e quello che ha un valore intangibile, perché rappresenta per Cuba la rumba una identità, visto che eravamo indigena, sono stati sterminati con la colonizzazione spagnola, arrivano questi schiavi deportati per la forza dal loro continente, si portano con sé tutte le espressioni, tutta un'anima che ancora oggi è viva. E è presente nella rumba, è presente nel folklore di Cuba, è presente anche in tanti paesi latinoamericani e credo che sia giusto che sia riconosciuta come un valore intangibile. Certo, tra l'altro appunto proprio per il suo valore, per la sua portata di significato, la rumba, quando c'è stati momenti di grossa repressione a Cuba, ha visto anche lei un momento di repressione, quindi la rumba per la sua sensualità, per il suo modo di liberazione veniva repressa e proibita, no? Durante la sua storia. So che è stato anche questo lo specchio, esatto, della repressione, anche lei ne ha fatto le spese. Esattamente, questa musica, la rumba, pure il danzón, quello non si poteva ballare, non si poteva suonare, era proprio vietato, era cosa proprio de ignorante, era una cosa che non si può, non si de rebelione, quindi, però nel tempo, guadagnando spazio, abbiamo avuto un sistema di resistenza intelligente, nel quale abbiamo potuto immascarare, diciamo, e produrre un movimento anche di lotta invisibile attraverso l'arte, dove possiamo parlare della patria, dell'amore, di tutto ciò che accade socialmente, perché la rumba è una denuncia di questa sofferenza, di questo modo salvaggio del mondo di vedere all'essere umano. Eccola perché la rumba deve essere universale. Va bene, io veramente sono contentissima che abbiamo avuto questo breve scambio. Non so, vi lascio il microfono se volete voi da soli aggiungere qualcosa. Insomma, la mia conoscenza è limitata, io sono solo assetata di sapere, quindi così se pensate che ci sia qualcosa di importante da aggiungere. Bueno, quello importante da aggiungere, credo che non dovremo dimenticare mai la cultura dei popoli, perché è una voce che esiste, che è viva e che si tramanda di generazione in generazione e di questo modo anche possiamo vivere in un mondo migliore attraverso la cultura, l'escambio culturale fra i popoli. E la rumba non è solamente di Cuba, perché esatto. Ci sono italiani che sono nella rumba, che l'hanno mescolata con la tambumba. Con la tamburriata, e quindi questa è una cosa da considerare. Noi non siamo soli, quindi noi compartiamo lo nostro e ci fusioniamo anche con l'Italia e con altri paesi, quindi la rumba è un prodotto umano che include e non esclude a nessuno. Io veramente non so come ringraziarvi, avremo modo poi di vederci anche da qui alla presentazione che ci sarà proprio per formalizzare questa richiesta di fare della rumba cubana un patrimonio intangibile dell'umanità, quindi io di nuovo ringrazio Lises Mora, Irma Castillo, vi ringrazio tantissimo veramente e a presto. grazie a voi. A lei, a presto, ciao. Ciao. Pronto? Para comprar. Vabbè, quindi tutti a Cuba, eh? Tutti a Cuba. Direi che tocca, no? Che facciamo? Noi non la prendiamo questa memoria, rimaniamo a Roma? No, insomma, scherzi a parte, come vedete, insomma, non si finisce mai di imparare, di scoprire e di fare memoria. Quella che è stata la schiavitù a Cuba 500 anni fa, qui diventa qualcosa di molto simile, nel 2012. Ma non solo qui, insomma. Allora io, chissà oggi dovessi finire puntuale per la gioia di Profondo Rosa. Alle 17:58 minuti, visto che insomma abbiamo parlato di rumba, di contaminazioni musicali, vi voglio far sentire un bellissimo disco che si chiama Ciccia Muffin. Dunque la ciccia è quella musica che viene, diciamo, dalle popolazioni delle favelas di lì, no scherzo, della zona andina del Perù, quindi assomiglia molto alla cumbia ma alla sua specificità di essere chiamata ciccia. Da lì penso che ci sia anche un'origine con la ciccia morada, che è una bevanda che alcuni trovano orrenda e chi trova deliziosa, sicuramente nutriente, visto le zone dove stiamo parlando. Comunque, Ciccia Muffin, nient'altro è che questa band che ha mischiato la ciccia col reggae muffin, e visto che il reggae muffin qui mi pare che insieme al reggae negli ultimi 20 anni siete stati tutti un po' a rota, e vediamo se questo vi piace. Io, insomma, se vi piace, drillate, lo sapete, siamo Onda Rossa, è così. Una bellissima copertina, la Lima Ciudad presenta la inedita Ciccia Muffin. Se vacilo, sangre chulería que te gusta un montón. Tú, comienza el vacilo, sangre chulería que te gusta un montón. Ha trillato, eh? Tu come sei vacilo, sangra chuleria che te gusta un montón. Tu come sei vacilo, sangra chuleria che te gusta un montón. È l'ultimo come again, una volta che finisco puntuale. Oh, come uno che dice reggae, mamma mia, oh, basta! Tu, come sei vacilo, sangra chuleria che te gusta un montón. Tu, come sei vacilo, sangra chuleria che te gusta un montón. Tu, come sei vacilo, sangra chuleria che te gusta un montón. Tu, come sei vacilo. El vacilón primitivo. Raffa, ma come non sei te? Ma quante ne conosco di Raffe io? Allora, a Raffiz, va bene? Quella del mercoledì mattina, ok? Italiano tienen que saber que la cumbia es el futuro, así que... Detto fatto. 18.4 minuti. E allora, come capita quando attacca la sigla, io come sempre saluto tutte e tutti voi. Mi raccomando, la rumba, studiate bene, vi voglio fomentate e fomentati. Pusimos todo.